sacco sarai diventato. Rivedo ancora quel mattino quando sei partito. Chissà se ti ricorderai di quelle nostre sfide e le risate, le chiacchiere in lingue sconosciute. Piccolo amico, mi ricordi, guardavi lontano. Se mi vedevi mi facevi un gesto con la mano. Il tempo trascorreva e ci cullava dolcemente e noi distesi al sole aspettavamo tutto e niente. Crescerai insieme a un sogno che ti porterà lontano e sentirai qualcuno che ti prenderà per mano. Avrai una strada lunga da percorrere ogni giorno, perché c'è lei che aspetta solamente il tuo ritorno. Le darai l'amore che l'infanzia ti ha negato e lei il suo respiro sul tuo corpo addormentato, sul tuo corpo addormentato. Piccolo amico, mi domando come sarà stato che subito quel pomeriggio mi hai riconosciuto. Forse in un'altra vita siamo stati due fratelli e ci rincorrevamo fra guanciali e fra fornelli. Piccolo amico, mi ricordo i segni sul tuo viso, che una disperazione vile e muta aveva inciso. Chissà dentro di te come correvano i pensieri, quando volevi stare tutto solo giorni interi. Crescerai insieme a un sogno che ti porterà lontano e sentirai improvvisamente il tocco di una mano ed un senso di vuoto che non saprai dominare. Però c'è lei che vive per vederti ritornare. Le darai l'amore che nessuno ti ha mai dato e lei il suo respiro sul tuo corpo addormentato, sul tuo corpo addormentato. Forse ci rincontreremo un giorno, tu uomo e io appassito come un albero d'inverno. Ci afferreremo per le mani, pronti a un'altra sfida, ad un'altra risata che abbracci ancora questa vita. ci afferreremo per le mani, pronti a un'altra sfida, ad un'altra risata che abbracci ancora questa vita.